Capitolo 40, 10 gennaio 1827. Ieri sera ho scritto quanto sopra in salotto mentre Huntington, mio marito, dormiva sul divano dietro di me, o almeno così credevo. Invece, senza che me ne accorgessi, si è alzato e mi si è messo alle spalle, spinto dalla curiosità. Me ne sono accorta solo perché, quando stavo per chiudere il diario, lui ci ha appoggiato sopra una mano, esclamando: «Se non ti dispiace, adesso voglio proprio darci un'occhiata». Così dicendo, ha preso una sedia e si è messo al tavolo a sfogliarlo all'indietro per cercare di capire qualcosa di più di quanto aveva letto. Purtroppo ieri sera era più sobrio di quanto sia di solito. Non ho certo lasciato che continuasse tanto tranquillamente, anzi, più volte ho cercato di toglierglielo dalle mani con forza, ma invano. L'ho rimproverato per il suo comportamento indegno e spietato, e infine ho soffiato sulle candele per spegnerle. Lui si è semplicemente spostato vicino al camino, ha ravvivato il fuoco e ha proseguito la lettura come se niente fosse. Avevo l'impulso di spegnere anche il caminetto versandoci una caraffa d'acqua, ma era davvero troppo curioso per lasciarsi scoraggiare tanto facilmente, e anzi, più mi davo da fare per impedirgli di leggere, più si mostrava determinato ad andare avanti. In ogni caso, era troppo tardi. «Interessante davvero, cara», ha detto infine, sollevando lo sguardo su di me, che ero lì accanto in piedi, che mi tormentavo le mani. «Ma siccome è piuttosto lungo, finirò di guardarlo in un altro momento. Adesso consegnami le chiavi». «Le chiavi?» «Sì, le chiavi del tuo armadio, della scrivania, dei cassetti e tutto il resto», mi ha detto alzandosi a sua volta con una mano tesa verso di me. «Non le ho», gli ho risposto. In realtà la chiave della scrivania si trovava nella toppa, con attaccate tutte le altre. «Ebbene, fattele portare», ha insistito, «e se quella cagna di Rachel non le consegna immediatamente, la caccerò di casa domani stesso». «Non sa dove le tengo», ho risposto a quel punto, allungando una mano per prenderle, sperando che non mi vedesse. «Io invece lo so, ma non te le darò senza un motivo». «Adesso lo so anche io», e così dicendo me le ha strappate dalla mano chiusa. Poi ho preso una candela e l'ha riaccesa con il fuoco del camino. «Adesso procediamo alla confisca dei beni», ha detto con un ghigno. «Passiamo prima in biblioteca». Si è messo le chiavi in tasca e si è avviato. Io l'ho seguito, non so se per impedirgli di combinare qualcosa o per assistere al peggio. Sul tavolo all'angolo c'erano i miei strumenti, pronti per il giorno dopo, coperti da una stoffa. Non ha avuto difficoltà a individuarli. Ha posato la candela e pian piano ha gettato nel fuoco tutto quanto: la tavolozza, i colori, le matite, i pennelli. Ho assistito alla distruzione di tutto. I mestichini si sono spezzati, l'olio e la trementina evaporati rumorosamente su per il camino. Poi ha suonato la campanella. «Benson, fai portare via queste cose e di' alla cameriera che le utilizzi per il fuoco», ha detto indicando la tela e il cavalletto. «Alla signora non occorrono più». Benson è rimasto pietrificato a guardarmi. «Portale pure via», gli ho detto, mentre Huntington mormorava un'imprecazione. «Anche questo?» ha chiesto Benson allibito, riferendosi al mio dipinto incompleto. «Sì», gli ha risposto il padrone. Dopodiché il signor Huntington è salito in camera. Non l'ho seguito, me ne sono rimasta seduta lì senza parole, senza lacrime. Dopo circa mezz'ora è tornato di sotto, mi si è avvicinato e mi ha accostato la candela al viso, ridendo in modo quasi insopportabile per me, tanto che con un brusco gesto della mano gliel'ho fatta cadere a terra. «Oh!» ha esclamato lui facendo un salto indietro. «Dal rancore si direbbe il demonio in persona. E chi li ha mai visti occhi simili tra i comuni mortali? Luminosi anche nel buio, come quelli di un gatto. Che dolce che sei!» Poi si è chinato a raccogliere il candeliere e la candela, che oltre a essersi spenta si era anche rotta. Ha chiesto che gliene portassero un'altra. «Benson, la signora ha spezzato la candela, portane una nuova». «Non fai certo una bella figura», gli ho detto quando il cameriere si è congedato. «Non ho detto mica di averla rotta io», ha risposto. Dopodiché mi ha lanciato le chiavi. «Ecco qui. Come vedrai, non manca niente, a parte i soldi e i gioielli, più qualche altra cosa che ho pensato fosse meglio tenere per evitare che ti venga l'ambiziosa fantasia di tramutarla in oro. Ho lasciato qualche sovrana che ti farai bastare fino alla fine del mese. Se dovessi aver bisogno di altro denaro, sarai così gentile da fornirmi un elenco delle tue spese. D'ora in avanti ti passerò un mensile per i tuoi acquisti personali e non lascerò più che sia tu a occuparti dei miei affari. Preferisco affidarmi a un amministratore e risparmiarti la tentazione. Quanto all'amministrazione casalinga, voglio che da oggi in poi la signora Greaves sia più che precisa nei suoi conti. Voglio studiare un sistema nuovo. Perché? Cosa hai scoperto, signor Huntington, che volevo derubarti, forse? Forse non in questioni di denaro, no, ma sarà meglio evitarti la tentazione. In quel momento è tornato Benson portando la candela e siamo rimasti per un po' in silenzio. Io ancora seduta immobile, lui in piedi, dando le spalle al fuoco, gloriandosi tacitamente della mia costernazione. Dunque, pensavi che saresti riuscita a coprirmi di vergogna? Non è così? Volevi fuggire e mantenerti, facendo l'artista, sottraendomi anche mio figlio, magari facendone un bottegaio yankee o un pittore da strada. Qualsiasi cosa pur di evitare che si faccia un gentiluomo uguale a suo padre. Per fortuna non ti è riuscito di mantenere il segreto. Grazie al cielo, le donne non possono fare a meno di parlare, e se non hanno un'amica con cui confidarsi lo fanno con i pesci, lo scrivono sulla sabbia. Ma soprattutto grazie al cielo che stasera ero abbastanza sobrio, altrimenti avrei finito per addormentarmi e non mi sarebbe venuto in mente di curiosare tra le faccende della mia adorata sposa, o non avrei trovato la lucidità per prendere in mano la situazione. Lasciandolo lì, ad autoincensarsi, sono andata a mettere il mio diario al sicuro. Ricordavo che era rimasto in salotto e volevo risparmiarmi un'ulteriore umiliazione di vederglielo nuovamente in mano. Mi era insopportabile il pensiero che potesse trastullarsi leggendo i miei pensieri e i miei ricordi, sebbene non avrebbe di sicuro trovato molte cose buone su di sé, eccetto all'inizio. Preferirei gettarlo nel fuoco che fargli leggere le cose che ho scritto quando ero così stupida ad amarlo ancora. Ah! Mi ha gridato dietro mentre mi allontanavo. E fai presente a quella maledetta vecchia miserabile di starmi lontana per un paio di giorni. La liquiderei per cacciarla domani stesso, ma temo che farebbe più danni fuori casa che dentro. Mentre me ne andavo, ha continuato a inveire contro la mia fedele compagna, usando espressioni che non ripeterò per non sporcare queste pagine. Ho sistemato il diario e sono andata subito da lei per raccontarle in che modo era stato smascherato il nostro piano. Era sconvolta e angosciata quanto me, e di notte anche più di quanto fossi io, dato che per parte mia ero anche un po' frastornata dall'accaduto ed eccitata dalla rabbia. La mattina dopo mi sono svegliata senza quell'attesa felice che a lungo mi aveva confortata e ho continuato ad aggirarmi per la casa tutto il giorno senza requie, evitando di incontrare io mio marito e cercando di sfuggire anche a mio figlio, sentendomi inadeguata a fargli da tutrice e da amica, senza speranze per il suo futuro e desiderando solo che non fosse mai nato. Ho sentito il peso della mia sorte cadermi addosso d'improvviso e ancora lo sento. Sono conscia che questi sentimenti torneranno ogni giorno. Non sono che una schiava, una reclusa, ma non sarebbe nulla se fossi da sola. Non me ne lamenterei. Non poter trarre in salvo mio figlio dalla sua rovina, che è stata finora la mia unica speranza e la mia grande angoscia. Che ne è della mia fede in Dio? Innalzo il mio cuore verso il cielo, ma non trovo che polvere. Posso dire solo: mi ha costruito un muro tutto intorno perché non potessi più uscire. Ha reso pesanti le mie catene. Mi ha saziato con erbe amare, mi ha dissetato con l'assenzio. E non dimentico anche. Ma se affligge, avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia, poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Devo continuare a pensare così, e seppure sono destinata a soffrire in questo mondo, cos'è in fondo una vita di afflizioni in confronto a una pace eterna? E il mio piccolo Arthur non ha forse altri amici oltre me? Non è forse vero che il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli? Capitolo 41, 20 marzo. Sono libera da Huntington, che è partito per la stagione, e mi sento rifiorire. Si è allontanato i primi di febbraio e non appena se n'è andato ho subito ricominciato a respirare, a sentirmi nuovamente vitale, non certo per il miraggio di andarmene, dato che si è organizzato al meglio per evitare che mi trovi nella possibilità di farlo, ma con il desiderio di apprezzare il più possibile questa situazione. Ho avuto finalmente Arthur tutto per me e dimentica del mio sconforto. Ho impiegato tutte le mie forze per strappare le erbacce che gli erano state piantate nella testolina, per seminare di nuovo quel che di buono era stato soffocato. Per fortuna il suo non è certo un terreno arido o sassoso, e se è vero che le erbacce crescono in fretta, lo stesso succede con le piante più buone. È più intelligente e affettuoso di quanto non sia mai stato suo padre, e non perdo la speranza di insegnargli a obbedire, amare e riconoscere la sua vera amica, ora che nessuno si diverte a remare contro di me. Non è stato facile inizialmente liberarlo dai vizi che gli aveva dato il padre, ma al momento direi che abbiamo superato ogni difficoltà. Non l'ho più sentito pronunciare volgarità. E sono riuscita a fargli venire il disgusto per gli alcolici, che mi auguro che né il padre né i suoi amici siano in grado di eliminare. Gli piacevano davvero troppo per essere un bambino così piccolo, e avendo in mente oltre che il suo anche il mio sventurato padre, era un'inclinazione che mi angosciava parecchio. Riducendogli la sua abituale dose di vino o vietandogli di berne, non avrei ottenuto che di aumentare il suo interesse. Gliene davo quindi quanto gliene dava solitamente il padre, anzi quanto ne chiedeva lui, però aggiungevo di nascosto qualche goccia di tartaro emetico nel bicchiere, sufficiente a dargli nausea e malessere. Vedendo che quell'abitudine gli procurava puntualmente conseguenze spiacevoli, alla fine cominciò a stufarsene. E più lui non ne voleva, più io insistevo, tanto da indurre in lui una vera e propria repulsione. Una volta finito di rendergli odioso il vino, ho iniziato con l'acqua e brandy e l'acqua e gin, che già conosceva e chiedeva, e che volevo gli diventassero altrettanto odiosi. Ci sono riuscita, continua a dire che quelle bevande gli danno la nausea e io non gliene offro più, se non in forma di minaccia quando lo rimprovero perché è disobbediente. Se non ti comporti bene, ti faccio bere un bicchiere di vino, Arthur. Oppure, non si dice Arthur, se lo ripeti un'altra volta ti do acqua e brandy. È capitato che stesse poco bene, in quel caso gli ho somministrato del vino come medicinale, senza il tartaro emetico, e continuerò a farlo ancora per un po'. Non perché mi fidi delle proprietà curative del vino, ma per la possibilità di sfruttare qualsiasi associazione negativa. Desidero che la repulsione sia radicata in lui così profondamente che nulla potrà in futuro eliminarla. Spero in questo modo di liberarlo per sempre da questo vizio. Quanto agli altri, ho paura che con il ritorno del padre il buono che gli ho insegnato sarà presto distrutto. Ma se Huntington ricomincia a volergli insegnare a insultare sua madre e seguire l'esempio del padre, glielo allontanerò. Ho già elaborato un piano da attuare, in quel caso, che sono certa di riuscire a realizzare se mio fratello mi offrirà il suo accordo e il suo aiuto. L'antica casa dove siamo nati entrambi e dove nostra madre è morta e abbandonata, sebbene credo non inservibile. Se lo convincessi a rendere un paio di stanze abitabili per noi e darmele in affitto, come se fossi un'estranea, potrei trasferirmi lì sotto falso nome, guadagnandomi da vivere con i dipinti. Inizialmente dovrebbe prestarmi lui i soldi, ma poi glieli restituirei e conquisterei una modesta indipendenza. Vivrei piuttosto reclusa, poiché la casa è in posizione isolata e l'intorno non abitano molte persone. Potrebbe occuparsi lui stesso di vendere le mie opere. Ho pensato a tutto. Non mi resta che persuadere Frederick a stare dalla mia parte. Presto mi verrà a trovare e gliene parlerò, ovviamente dopo avergli raccontato le condizioni che mi hanno portata a elaborare un piano simile. Sa già molto più di quanto gli abbia rivelato io stessa, credo. Lo capisco dalla dolcezza e dal tono malinconico delle sue lettere e dal fatto che non nomina quasi mai mio marito, e quando lo fa è sempre con una nota di tristezza. Inoltre, non viene mai a farmi visita quando Huntington è a casa. Tuttavia, non mi ha mai detto nulla apertamente a questo riguardo, né mi ha mai fatto domande o dato nulla che potesse incoraggiare le mie confidenze. In caso contrario, non credo che sarei riuscita a nascondergli molto. Può darsi che il mio riserbo lo ferisca, perché è un uomo particolare. Mi piacerebbe conoscerlo meglio. Prima che mi sposassi, veniva a passare un mese l'anno a Stanningley. ma da dopo la morte di nostro padre l'ho visto una sola volta quando è venuto a trovarci mentre Huntington non c'era. La prossima visita sarà più lunga e avremo modo di parlarci più schiettamente, come ai vecchi tempi, quando eravamo bambini. Nutro molto affetto per lui e la mia anima è malata di solitudine. 16 aprile. È arrivato ed è già ripartito. Non voleva trattenersi più di 2 settimane e il tempo è volato, per quanto davvero felicemente. Sicuramente non ho una buona indole, perché le ultime sfortunate vicissitudini mi hanno incattivita oltre che intristita, e stavo cominciando a vedere di cattivo occhio gli altri esseri umani, in particolare gli uomini. Eppure mi ha fatto bene scoprire che tra loro ce n'è almeno uno degno di fiducia e ammirazione. Così sicuramente ce ne saranno anche altri che non conosco. A parte Lord Loborough, che comunque ha avuto un passato piuttosto trasgressivo. Ma come sarebbe oggi Frederick se fosse cresciuto in società frequentando simili uomini? E che ne sarà di Arthur, che pure è naturalmente portato alla dolcezza, se non lo traggo in salvo da quel mondo e da quelle compagnie? Ebbi cura di accennare queste paure a mio fratello la sera stessa del suo arrivo, quando presentai al piccolo suo zio. E proprio come te, Frederick, gli dissi, a volte mi pare che somigli in certe cose più a te che al padre, e la cosa mi rende felice. Oh, così mi lusinghi, Helen, rispose lui accarezzando i capelli morbidi di Arthur. Non lo vedrai più come un complimento se ti dico che preferirei che somigliasse a Benson piuttosto che a suo padre. Si limitò ad alzare un sopracciglio, ma senza dire nulla. Hai capito che genere di persona è il signor Huntington? Sì, credo di averne un'idea. Un'idea sufficientemente chiara per sentirti dire che sto meditando di fuggire con mio figlio per vivere in pace, nascosta da qualche parte e non vederlo più. Parli sul serio? Se l'idea che ne hai non ti basta, ti racconterò io qualcosa. E così dicendo gli descrissi per sommi capi il modo in cui si comportava in generale e poi più in particolare il modo in cui si comportava con il bambino. Gli confidai le mie angosce per il piccolo e il mio desiderio di liberarlo dall'influenza negativa di suo padre. Frederick era furioso con Huntington e addolorato per me, ma riteneva il mio piano troppo avventato e irrealizzabile. Mi disse che secondo lui mi preoccupavo troppo per il bambino e mi pose talmente tante obiezioni, proponendomi soluzioni più benevole per risolvere la situazione, che mi trovai costretta a raccontargli maggiori dettagli per fargli capire che mio marito era davvero incorreggibile, che non avrebbe mai rinunciato a suo figlio, dato che anzi era determinato a tenerlo lì quanto io ero determinata a portarlo via. Non mi restavano dunque altre soluzioni se non quella di lasciare il paese, come era stato il mio programma iniziale. Per evitare che mi spingessi a tanto, accettò di rendere abitabile qualche stanza della nostra vecchia casa, se ne avessi avuto bisogno. Sperava comunque che non servisse alla fine se non in caso di reale, estrema necessità, e io glielo promisi, perché sebbene quella soluzione mi apparisse come un miraggio di pace rispetto a come stavo vivendo, cercherò invece di restare qui il più possibile per affetto nei confronti dei miei amici, di Millicent ed Esther, sorelle del mio cuore, dei poveri fittavoli di Grassdale e soprattutto per mia zia. 29 luglio. La signora Hargrave e sua figlia sono rientrate da Londra. Esther era contentissima della sua prima stagione in città, ma non si è ancora impegnata. La madre aveva trovato per lei un buon partito, convincendolo anche a gettare ai suoi piedi cuore e patrimonio, ma Esther ha avuto la sfacciataggine di rifiutarlo. Era ricco e di buona famiglia, ma la ragazza diceva che era vecchio come Adamo, brutto come il peccato e antipatico come... Beh, meglio non fare nomi. Però è stata dura, mi raccontò. Mamma era molto delusa che il suo progetto fosse fallito e arrabbiata per questo mio tenace oppormi ai suoi desideri, e ancora lo è. Io però non posso farci niente. Anche Walter è amareggiato per la mia caparbietà e per questo mio capriccio, come lo definisce, e temo che non mi perdonerà tanto facilmente. Non lo credevo capace di essere tanto odioso, come l'ho visto comportarsi negli ultimi tempi. Invece Millicent mi ha incoraggiata a non cedere, e anche voi, signora Huntington, se aveste visto l'uomo in questione, mi avreste consigliato di rifiutarlo. Oh, se è per questo anche senza bisogno di vederlo, le dissi. Mi basta sapere che a voi non piace. Oh, ero sicura che avreste detto così. Mamma, tuttavia, diceva che sareste rimasta turbata dalla mia condotta. Non immaginate quante me ne ha dette, che sono un'ingrata, che mi oppongo alla sua volontà, manco di rispetto a mio fratello, e resto un peso per lei. Ho paura che prima o poi la spunterà. Sono dotata di un carattere forte, ma a sentirla dire certe cose mi viene voglia di cedere, salvo poi soffrirne e dire: Mamma, vedi, è tutta colpa tua. Vi prego, non fatelo, la supplicai. Non si obbedisce con queste motivazioni. Non avreste che guai. Restate salda sulla vostra decisione, invece. Vedrete che a un certo punto vostra madre non vi tormenterà più, e anche quel gentiluomo vi dimenticherà. Invece no, mamma non si stancherà finché non avrà esasperato tutti quanti con questa faccenda. E quanto al signor Oldfield, è stata lei stessa a fargli credere che l'ho rifiutato solo perché sono giovane e non sopporto l'idea di sposarmi così presto, e non perché non mi piaccia, ma che alla prossima stagione mi troverà senz'altro più assennata e meno puerile. E così siamo rientrate perché lei possa educarmi a coltivare un maggior senso del dovere prima che arrivi la prossima stagione, e anzi vi dirò che sono quasi convinta che non andremo affatto in città se non mi decido a cambiare idea. Dice di non potersi permettere di portarmi a Londra per svago e che non tutti i gentiluomini saranno disposti a sposarmi senza una dote, qualsiasi siano le mie fantasie sull'argomento. Esther, vi capisco e vi ripeto, siate salda. Sposare un uomo che non apprezzate equivale a offrirsi da subito in schiava. Se vostra madre e vostro fratello non sono comprensivi, potete lasciarli, ma un marito ci lega per tutta la vita, non dimenticatelo. Certo, non potrò lasciarli se non mi sposo, né potrò sposarmi se nessuno mi vedrà. Ho visto un paio di uomini in città che mi potrebbero piacere, ma erano i figli più piccoli e mamma non ha voluto che mi fossero presentati. Ce n'era uno in particolare a cui mi pareva di piacere molto, ma lei non ha voluto sentire ragioni e ha ostacolato in ogni maniera la nostra amicizia. Che rabbia! Immagino che possa farvi questo effetto, sì. Eppure magari se l'aveste sposato sareste potuta finire a lagnarvene ancor più di quanto fareste se aveste accettato la proposta del signor Holdfield. Quando vi incoraggio a non sposarvi senza amore, non vi sto consigliando di sposarvi solo per amore. Dovete considerare diverse altre cose. In mancanza di una buona ragione per separarvene, io dico, tenetevi stretti il cuore e la mano. E se questa ragione non dovesse arrivare, potrete consolarvi pensando che se è vero che vivendo da sola rischiate di non provare molta gioia, al tempo stesso i vostri dolori non saranno più profondi di quanto siete comunque in grado di sopportare. Lo pensa anche Millicent. Eppure io non sono d'accordo. Se mi credessi destinata a restare zitella per tutto il resto della mia vita al Grove a pesare su mia madre e su Walter, ormai ho capito come la vedono loro. Non lo sopporterei, non potrei più amare la vita, piuttosto fuggirei con il maggiordomo. Il vostro è un caso particolare, lo ammetto, ma dovete solo avere pazienza ed evitare di prendere decisioni affrettate. Non avete ancora 19 anni, mia cara, ce ne vuole prima che qualcuno vi dia della zitella. Non potete sapere cosa ha previsto per voi la provvidenza. Avete comunque diritto alla protezione di vostra madre e di vostro fratello, per quanto svogliatamente lo facciano. Siete molto seria, signora Huntington, mi disse Esther dopo qualche istante. Quando Millicent mi ha parlato nello stesso tono scoraggiato a proposito del matrimonio, le ho domandato se era felice. Lei mi ha detto di sì, ma io le ho creduto solo per metà. Vorrei chiedere a voi la stessa cosa. È una curiosità troppo insolente, le risposi ridendo. Inaccettabile da parte di una ragazza, una donna sposata e tanto più vecchia di lei, quindi non vi risponderò. Allora scusatemi, mia signora, disse ridendo anche lei e gettandosi tra le mie braccia. Sentii una lacrima scivolarmi sul collo mentre poggiava la testa sul mio petto e con un misto di tristezza e impertinenza, di timidezza e di coraggio, diceva: Io so che voi non siete felice nel modo in cui vorrei esserlo io, perché passate la vostra vita a Grassdale, mentre il signor Huntington è fuori a divertirsi come gli pare. Io pretenderò che mio marito condivida sempre i suoi svaghi con me, e se non riterrà la mia compagnia la gioia più grande, allora sarà peggio per lui. Se è questo che vi aspettate da un matrimonio, Esther, sarà meglio che facciate molta attenzione a chi sposate, o meglio, che non vi sposiate proprio.